Capitolo 18. Venezia. 8 ottobre 1546. Il ponte di Rialto trabocca di bancarelle, venditori, passanti, che sembrano dover cadere in canale da un momento all'altro. Tanto sono pigiati. Mi faccio strada a gomitate, senza far caso alle imprecazioni che mi piovono addosso. Imbocco le mercerie, vicoli che rimbombano degli strilli dei commercianti di tessuti, degli orefici, ma almeno si respira. Un vecchio tedesco a zonzo, come tanti. L'idea era di raggiungere il convento dei Teatini, ma adesso non ne ho più voglia, non servirebbe. Il convento. Nessuno sa cosa accade dentro un convento, nessuno sa chi sei. Nel convento il tuo nome è un nome qualsiasi, lo ha detto Bartolomeo. Un centro di smistamento di spie nel luogo più impensabile. Tedeschi? Almeno una mezza dozzina di tedeschi. Gente che contava le pisciate di Lutero, piazzata nei posti giusti, fin dall'inizio. Fin da quando uno sconosciuto frate agostiniano affisse le sue tesi a Wittenberg. Passo Rio San Salvador, verso Campo San Luca. Il vociare della compravendita diminuisce appena. Wittenberg. È trascorsa una vita, la mia. Lutero è morto. I protestanti hanno fondato la loro chiesa riformata. I giochi sono chiusi. Le spie vengono richiamate in Italia per nuove imprese. La posta è il potere a Roma, forse il soglio pontificio. Nuove direttive, non è difficile immaginare quali. Infiltrare il partito avversario dentro la Chiesa romana. Gli spirituali, quelli che vorrebbero trovare un accordo con i protestanti. Spiare ogni loro mossa e riferire al capo. Magari corteggiarli, gratificare i loro luminosi intelletti. Aspettare un passo falso e colpirli a morte. Proprio come in Germania. Come con Münzer. Come con gli anabattisti. C'è un tempo per piantare e un tempo per sradicare le piante. Quelet 3-2. Mi siedo su un pilastro, lungo Rio dei Fuseri. La carta si sbriciola tra le dita, ma le parole sono ancora leggibili, dove le macchie del tempo non hanno cancellato le tracce all'inchiostro. Lettere che raccontano una storia di 20 anni fa, quando la Germania bruciava le parole di Magister Thomas e custodite con cura. Adesso so perché le ho portate con me durante tutti questi anni. Per ricordarmi di te, Quelet. Lancio in aria la moneta e la riacchiappo al volo. La scritta campeggia ancora ben visibile. Un Dio, una fede e un battesimo. Cimelio di un'altra sconfitta. Pezzo raro, quasi unico, forgiato dalla zecca di Münster. Un barcaiolo lancia il suo grido d'avvertimento prima di imboccare l'anza del Rio e sparire alla vista. I gabbiani galleggiano tranquilli, scrutando il fondale. Spiavi Lutero, spiavi Münzer, spiavi gli anabattisti, anzi, eri uno di loro, uno di noi. Forse ti ho conosciuto. Quelet. I contadini nella piana, i contadini di Münster, asserragliati dentro le mura, donne e bambini, cataste di morti. Sei qui. Carafa non può privarsi di una pedina importante come te. L'hai servito bene, ma adesso c'è l'Inquisizione, niente più alfieri solitari. Raccogliere voci, informazioni, spiare gli spirituali per cogliere il momento migliore. Sei qui, dove si gioca la partita decisiva, come sempre, come da 20 anni a questa parte. I miei 20 anni. Cataste di morti. Magister Thomas, Heinrich Pfeiffer, Ottilie, Elias, Johannes Denk, Jacob e Matthias Ziegler, poco più che ragazzi. Melchior Hoffmann, morto qualche anno fa, nella prigione di Strasburgo. Il fedele Gräsbeck e i fratelli Brunt, fatti prigionieri e giustiziati fuori dalle mura di Münster. E i Meyer e Bartolomeus Böckbinder, che mi prestò il nome, caduti nella strenua difesa della città. E ancora Eloy Prüsting e tutti i fratelli di Anversa. Una processione di fantasmi sulla riva di questo canale. Siamo rimasti solo io e te, gli ultimi testimoni di un'era che tramonta, due vecchie ombre stanche. Quell'odio mi ha abbandonato, non è uno svantaggio. Posso essere più attento, anche più scaltro, più di quanto tu non lo sia mai stato. Oggi posso scovarti. Oltre Piazza San Marco, il molo si allunga verso l'arsenale, dove le navi insuperabili dei veneziani attendono il primo varo. Di fronte, l'isola di San Giorgio Maggiore, con il convento benedettino. Il bacino dell'arsenale si apre sulla sinistra. I carpentieri lavorano agli scheletri di due galere imponenti. Mi siedo a osservare la maestria di questi uomini famosi nel mondo. ma scacciare i pensieri non è facile. Gli elementi del quadro sono sempre gli stessi. Da una parte un cardinale inglese, amato da tutti quelli che mirano alla riconciliazione con i protestanti, cavallo vincente dell'imperatore, che spera in una pacificazione religiosa della cristianità, perché l'impero gli sta sfuggendo di mano. Il più odiato dai cardinali che fomentano la guerra spirituale dell'Inquisizione. Dall'altra parte c'è il principe nero del Sant'Uffizio, il cardinale Carafa, che costruisce la macchina un pezzo alla volta e si prepara a dare battaglia. Ha richiamato tutte le sue spie in Italia per appiccicarle addosso agli spirituali. Una schiera di osservatori, un esercito di occhi e ovviamente di delatori. Uno di loro è il più importante, il più fidato, il più bravo, se è vero che era a Wittenberg e a Münster. Münster, Gnana Battisti, vecchia conoscenza. Un'idea, soltanto un'intuizione. Nessuno qua giù ha mai conosciuto l'anabattismo, ma lui sì, era Münster e ha saputo tradire al momento giusto. Gli elementi a disposizione? Un libro, Il Beneficio di Cristo, manuale di calvinismo adattato per i cattolici, ma si potrebbe tirare fuori dell'altro. Come gli anabattisti hanno fatto dagli scritti di Lutero, accendere il conflitto, radicalizzare i contenuti del libro, dal calvinismo all'anabattismo. Mi alzo, senza smettere di riflettere, mi incammino a passo spedito verso la piazza. Gli inquisitori sono cani da caccia, annusano la preda, la puntano e non la mollano più. Così ha detto Donna Beatrice. Corre una lepre, un bersaglio che li porti allo scoperto, e a uscire in caccia deve essere il più bravo, quello con più esperienza, Quellet. Se la preda fosse un anabattista, magari tedesco, manderebbero lui, quello che li ha già fottuti a Münster, quello che li conosce bene. Attraverso Piazza San Marco a passo frenetico, imboccando le mercerie. Un anabattista in Italia, qualcuno che ci sappia fare. Mi fermo, davanti al fondaco dei tedeschi, con il fiato grosso e il cuore in gola. Respiro profondo. Una partita a due, due che hanno combattuto le stesse battaglie. Un solo vecchio conto da regolare. Posso scovarti. Cosa succederebbe se Il Beneficio di Cristo si trasformasse in un libro molto più pericoloso di quello che è? Cosa succederebbe se qualcuno si mettesse ad andare in giro ribattezzando la gente con il beneficio in mano? Carafa e i suoi seguaci si metterebbero in caccia, ma soprattutto il cardinale Reginald Pole e tutti gli spirituali sarebbero costretti a scendere in campo e a dar battaglia per difendersi dall'attacco degli zelanti. È meglio che ciò accada prima che venga fatto papa un intransigente, uno zelante, un amico di Carafa, o ancor peggio, Carafa stesso. Meglio che si arrivi subito alla resa dei conti, prima che i delatori e gli spioni del principe nero riescano a incastrare Paul l'onesto e i suoi ingenui seguaci. Accelerare il conflitto, costringere Paul a ribattere colpo su colpo invece di continuare a incassare in silenzio. Spingere quel bel intelletto inglese a impugnare le armi. Deve essere lui il prossimo papa. Deve fare fuori il vecchio teatino. Lo specchio rimanda gli anni tutti insieme, ma c'è ancora un guizzo negli occhi. Qualcosa che deve essere balenato sulle barricate di Münster o tra le schiere contadine della Turingia. Qualcosa che non si è persa per strada, perché la strada non poteva ucciderla. Follia? No, ma come disse Perna, la voglia di vedere come va a finire. L'uomo nello specchio ha i capelli più lunghi, anche la barba si allungherà, vestiti meno eleganti, niente tessuti veneziani ma i vecchi stracci tedeschi. La faccia segnata quasi si appiccica al vetro, sguardo acuto, che scava dentro e ogni tanto punta in alto, a consultare il padre. Ieri ho chiesto a un bambino di 5 anni chi fosse Gesù e lui ha risposto «una statua». Il vecchio pazzo ghigna divertito. Ho trovato un anabattista.